Momenti ritmici frenetici, anche più caldi ma benefici. Sulla testa o qualcuno che calpesta. Quel che so, già lo so, quel che scura, sembra più duro, ma sono sicuro. La strada nuova è non per le uova, ma quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Senza le carte, lì dove andremo è un mondo a parte, il programmino di Cici D'Agostino, ma chiudi gli occhi e senza il gradino. Accendi solo il tuo sensore, chiudi gli occhi e fai freddo. Lamponi e more. E i colori di un bel fiore. stavate pensando? Dove stavate volando? E il vostro sogno sta continuando. E fa sentire una persona persa. È il programmino di Gigi D'Agostino. Non cerca seguaci, cerca amanti. Il programmino di Gigi D'Agostino non cerca seguaci, cerca amanti. È quella forza che ci attraversa e fa sentire una persona persa. Un po' persa, lei ci attraversa. D'Agostino. Che sarà? night, baby, good night. When tomorrow comes, I'm reborn, looking in your eyes, baby, good night. Sleeping tight and long, you'll wake up feeling warm. Baby, good night. When tomorrow comes, I'm reborn, looking in your eyes. Fragole. Di tante persone che ascoltano la musica, che sognano la musica, che vivono la musica, che ballano la musica. È la storia di tanta gente che ci sente, che non si pente. Che non gli piace, occhio per occhio, dente per dente. Grazie a tutto il popolo del programmino che mi sta così vicino. Mi sono arrivati tanti messaggi che parlano bene bene bene del programmino, che mi ringraziano per l'EP, che sono contenti di un disco che c'è. Un conto esserci e un conto essere. Noi tutti insieme siamo e non perdiamo, e se perdiamo noi lo capiamo e lo accettiamo, e se cadiamo poi ci rialziamo. questo è il momento, è l'unico momento. Questo è il tuo momento, l'unico momento. Ahora estamos aquí. En este momento, el único momento válido en mí. Questo è il momento. Questo è ancora un altro. Questo, hay veces que hacemos, decimos cosas y no sabemos por qué. Solo sabemos que ahora estamos aquí, en este momento, el único momento válido en mí. Questo è un altro momento ancora. Ci sono ancora. Hay veces que hacemos, decimos cosas y no sabemos por qué. Solo sabemos que ahora estamos aquí, en este momento, el único momento válido en mí. El único momento, el único momento, el único momento, el único momento. Hay veces que hacemos, decimos cosas y no sabemos por qué. Solo sabemos que ahora estamos aquí, en este momento, el único momento válido en mí. El único momento, el único momento, el único momento. El único momento, el único momento, el único momento, el único momento, el único momento, el único momento, el único momento. Valido. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Chi sarà? I feel so good, look at my mind. quanto più ti innalzi, quanto più guardi dall'alto, e insomma quanto più sei lassù, tante più cose puoi vedere, tante più cose puoi sentire, tante più cose puoi capire, credo. L'importante è provare a andare lassù, camminare, navigare lassù. Camminando sopra il cielo, camminando nel cielo. Paesaggi, strani messaggi, fotogrammi, immagini, ricordi, momenti, fotografia. Mi fa ricordare tante cose, ma soprattutto a quelle immagini di quei film che vedevo da bambino. Ma il bello di tutto ciò è che invece poi magari a distanza di un solo giorno lo stesso disco ti evoca qualcos'altro. E magari domani questo stesso disco mi fa pensare a qualcos'altro, a una persona che corre e che non sa perché corre, ma qualcosa rincorre. state guardando fuori dalla finestra? O vi state allenando in una palestra? Io sto alzando la mano destra, poi quella sinistra e guardo lassù. Tutti gli amici del triangolo rettangolo, ma anche a quelli che non sanno ancora cos'è. Volevo dire che c'è un grande appuntamento, una grande serata di musica e di libertà questa notte alla discoteca Roncaccio. È il programmino di Gigi D'Agostino in discoteca. Lasciatevi andare. Se qualcuno non sa più amare, forse ha paura delle zanzare. Tu piuttosto guarda l'arrosto, non lo mollare, lo fai bruciare. E non cercare qualcuno da incolpare. Alza la testa, comincia a camminare. Things I feel when I'm alone, I wonder why. Amico, il tempo vola e la vita è una sola. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Lei mi ha dato la consapevolezza di avere una vita da vivere. Prima neanche sapevo di averne una. E grazie a lei che oggi odo quel che odo. E grazie a lei che oggi vedo quel che vedo. Odo quel che odo. Vedo quel che vedo. Grazie alla vita, così infinita, così profonda, così rotonda. A questo sogno, nel mondo che non c'è. Sono ancora molti sentieri da percorrere, senza correre. Certe cose bisogna lasciare che avvengano, soprattutto dentro di noi, intorno a noi, sopra di noi. ognuno è unico nel suo modo di immaginare. Ognuno di noi è pazzo in un modo diverso. Il programmino di Gigi D'Agostino è una riflessione attraverso i ritmi, le armonie, i silenzi, le parole, sulla testa. Come uno scoglio, io sto scrivendo su questo foglio, lui non può agire se io non voglio, lo sto scrivendo su questo foglio, lui non può agire se io non voglio. Thank you. Thank you. Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Ascolta la canzone gel, la sfogliatella bella bella. Just keep moving and you're going to do it. strani pianeti, inconsueti. Strade poco battute. Ci sarà un motivo se sono meno battute. Se guardassi negli occhi, a volte non serve parlare. Basta stare a guardare. Abbracciare, respirare. Cadere senza sapere. Troppa gente non sa tacere. Thank you. A volte la musica finisce ed io rimango lì ad ascoltare. Chiudi gli occhi, attento al gradino, è il programmino senza tempo, molto attento, è il programmino di Gigi D'Agostino, dagli un ascoltino. Storia di quello là, quell'uomo che sta un po' qui e un po' là, e lui cammina e passeggia e lui pensa, anche a lui piace questa essenza, non riesce a stare senza. Nel tempo. RIN, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? peggio di D'Agostino. mi diverte stare a guardare come ogni uomo sa abituare la sua testa, le sue gesta a stare chiuse dentro una cesta. santo. Tu sia sincero. Arrivederci.